Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! È il 1832. Ancora scontri nello Stato Pontificio, la prima enciclica di Gregorio XVI è contro i liberali. Primo numero del periodico della Giovine Italia, alcuni affiliati arrestati a Roma. Si chiude la Convenzione di Londra, Grecia indipendente, sul trono un reale bavarese. La Germania piange un grande del romanticismo, è il poeta e scrittore Goethe. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. La penisola italiana è ancora in pieno fermento dopo la fallita congiura dell'anno passato che dal Ducato di Modena si è estesa ad un pezzo dello Stato Pontificio. È in questa zona che si sono registrati gli scontri peggiori tra il mese di gennaio e i primi di febbraio. 2000 liberali si sono dati battaglia con un numero doppio di soldati pontifici appena fuori Cesena. È stato un massacro, ma le violenze peggiori sono avvenute sui civili quando le forze del Papa sono entrate in città. Altrettanto a Forlì, mentre Bologna è riuscita a resistere più a lungo. Il colonnello Zamboni, alla guida delle truppe, è stato accolto da fischi, lanci di fango ed è persino caduto da cavallo. I soldati sono dovuti uscire e attendere l'arrivo delle forze austriache che hanno ripreso possesso della città. E intanto il nuovo Papa, Gregorio XVI, ha emanato la sua prima enciclica. Si intitola Mirari Vos ed è una dura invettiva contro l'indifferenza, ma soprattutto proprio contro i liberali. Vi si definisce come delirio la libertà di coscienza e pessima la libertà di stampa, mai abbastanza esecrata ed aborrita, si legge. A Marsiglia però è proprio un libero giornale a far discutere, è la pubblicazione La Giovine Italia, organo dell'associazione fondata da Giuseppe Mazzini e che sta raccogliendo molti proseliti, tanto che una congiura è stata scoperta proprio a Roma in novembre. Emerge dunque il programma politico di Mazzini e dei suoi tramite un periodico. Il Gazzettino del Risorgimento è riuscito ad ottenere il preambolo del giuramento che gli aderenti all'associazione sono chiamati a prestare e che chiarisce bene gli obiettivi politici. La Giovine Italia è la fratellanza degli italiani credenti in una legge di progresso e di dovere, i quali, convinti che l'Italia è chiamata ad essere nazione, che può con forze proprie crearsi tale, che il malesito dei tentativi passati spetta non alla debolezza, ma alla pessima direzione degli elementi rivoluzionari, che il segreto della potenza è nella costanza e nell'unità degli sforzi, consacrano, uniti in associazione, il pensiero e l'azione, al grande intento di restituire l'Italia in nazione di liberi ed eguali, una, indipendente, sovrana. L'impero ottomano, dopo la sconfitta nella guerra con i russi, è stato costretto ad accettare tutte le condizioni per l'indipendenza della Grecia decise nella Convenzione di Londra. I plenipotenziari di Regno Unito, Francia, Baviera e appunto Russia hanno stabilito che ad Atene vi sarà una monarchia retta dal 17enne bavarese Ottone di Wittelsbach. Costantinopoli sarà comunque indennizzata con 40 milioni di piastre. Scompare un grande della letteratura mondiale, di quel movimento che è stato chiamato romanticismo. Il mondo tedesco e con esso l'Europa piangono la morte di Johann Wolfgang von Goethe. Ha indubbiamente segnato un'epoca, portando a compimento la nuova sensibilità letteraria e filosofica del continente. Tra i suoi capolavori, I dolori del giovane Werther e un'opera, Il Faust, alla quale ha lavorato praticamente per tutta la vita e della quale si attende una pubblicazione completa. È tutto sul nostro sito, potete anche scaricare il foglio quotidiano, come sempre con immagini e notizie, visitate il nostro blog, la nostra pagina Facebook. Lasciateci un commento o fatelo mandandoci una missiva digitale, gazzettino@radio24.it è l'indirizzo. Da Simone Spezia che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.